Non sono pochi i figli di Dio che, dopo aver fatta l'esperienza della nuova nascita, hanno un forte desiderio di predicare l'Evangelo nel quale hanno posto fede, ma si pongono il problema se questa è la volontà di Dio. In effetti, come non tutti i credenti sono chiamati a lasciare il proprio lavoro secolare per occuparsi interamente del regno di Dio, così non tutti sono chiamati a predicare l'Evangelo a un pubblico più o meno folto. A volte ci sono dei figli di Dio che vengono esortati a predicare l'Evangelo dal pulpito anche se non hanno la chiamata per tale servizio, e così troviamo dei credenti che vivono con un senso di colpa solo perché esercitano un dono che non hanno. Altre volte ci sono credenti che potrebbero impegnarsi nella predicazione del Vangelo, ma sono insicuri della chiamata. Così, ci sono nella Chiesa di Dio situazioni assurde dove uomini che dovrebbero tacere parlano, mentre altri dovrebbero parlare e tacciono. Come fare? Sono io chiamato a predicare? Questa domanda almeno una volta te la sei posta anche tu. Domanda che sorge nel constatare che nelle chiese vi è carenza di ministero della parola, e alcune di esse stanno addirittura languendo, per non dire spegnendosi. È probabile che tutto questo succeda perché si cerca un cristianesimo ad alto livello o delle sensazioni nuove, e si dimentica che l'Apostolo Paolo, a dei credenti che cercavano doni spirituali sensazionali, disse sì di cercare dei doni spirituali, ma principalmente il dono di profezia, fino al punto di cercarlo ardentemente. Desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. Chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare. 1 Corinzi 14.1-39. Non vi è dubbio che per Paolo il profetizzare, cioè parlare da parte di Dio e anche predicare l'Evangelo, fosse uno dei compiti più importanti di un figlio di Dio. In effetti, l'Apostolo Paolo dedicò la sua intera vita alla predicazione del Vangelo. Soffrì per esso, e per esso era pronto a morire. Porsi dunque l'interrogativo se io sono chiamato a predicare l'Evangelo non è una curiosità, ma una necessità per non disubbidire alla volontà di Dio. Queste riflessioni non hanno lo scopo di rimproverarti, ma di incoraggiarti, e mediante la mia esperienza darti 4 consigli che potranno aiutarti a non trascurare il tuo eventuale dono. Il primo consiglio che posso darti per conoscere il tuo eventuale dono di predicare l'Evangelo è quello di stare attaccato alla fedele parola di Dio. Le caratteristiche che Paolo attribuisce ad un conduttore di chiesa dovrebbero essere anche quelle di chi predica il Vangelo. Vediamole. Il vescovo, infatti, come amministratore della casa di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Tito 1.79. Avrai notato in te, dopo la conversione, il desiderio prodotto dallo Spirito Santo di leggere e meditare la parola di Dio. Ricordo che, subito dopo essermi reso a Cristo, mentre prima andavo a ballare, la domenica pomeriggio stavo in casa e divoravo letteralmente libri della Bibbia. Ancora oggi, a distanza di anni, serbo nel mio cuore le benedizioni che il Signore mi ha dato, per cui, con l'Apostolo Pietro, ti consigli di nutrirti, come il bambino appena nato, del puro latte della parola. Il salmista, che aveva scoperto il valore del pensiero di Dio, ha dovuto riconoscere che i suoi comportamenti lo rendevano più savio dei suoi nemici, più savio dei maestri e addirittura più savio dei vecchi. È la parola di Dio che deve formare ed educare. Ecco la sua testimonianza. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho maggior intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Ho maggior intelligenza dei vecchi, perché osservo i tuoi comandamenti. Salmo 119.9-800. Se nel tuo cuore ammiri certi uomini di Dio e vorresti essere come loro, ricorda che per giungere al punto in cui sono essi hanno letto e leggono sistematicamente la Bibbia. La parola di Dio non deve essere letta perché vi è un pesante dovere, ma soprattutto perché essa è in grado di farci conoscere la volontà di Dio, di purificare la nostra mente, di suscitare in noi la giusta fede, di indirizzarci sul cammino della santità, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Purtroppo molti hanno la parola di Dio, eppure non la leggono, ma è anche questo il motivo per il quale pochi sono consacrati al ministero di annunziare il bellissimo messaggio del Vangelo. Perciò, se hai il dono di predicare e non leggi la parola di Dio, non diventerai mai un messaggero della bella notizia che Dio non imputa più agli uomini i loro falli, e con un atto di fede salvifica possono essere immediatamente salvati. Il secondo consiglio che posso darti per conoscere il tuo eventuale dono di predicare l'Evangelo è quello di farti amico una persona che già si impegna per la proclamazione del Vangelo, oppure un conduttore della Chiesa alla quale appartieni. Nella Chiesa alla quale appartieni ci sono certamente degli anziani, essi sono tuoi fratelli, e davanti a Dio sono uguali a te. Però, come avrai notato, essi hanno un'esperienza e un discernimento spirituale dal quale farei bene a farti influenzare. Se fra questi anziani c'è uno col quale ti trovi particolarmente a tuo agio, non trascurare questa opportunità. Fattelo amico. Non accontentarti che sia solo un fratello per te. Vai spesso a trovarlo e confidagli le tue esperienze, ma soprattutto confidagli i tuoi insuccessi, i tuoi dubbi. Non avere paura di svalutarti ai suoi occhi. Solo così egli potrà darti utili e preziosi consigli. Cerca di parlare con lui, non come uno che dà, ma come uno che riceve. Accetta per il momento anche quello che non capisci subito e un giorno capirai e ringrazierai il Dio di non aver agito impulsivamente. Ricordo che appena ho posto fede in Cristo sentivo il bisogno di un tale amico. Nella chiesa alla quale appartengo ci è un conduttore che mi ha offerto la sua amicizia e per me era automatico la sera, dopo una giornata di lavoro, fare una decina di chilometri in bicicletta per andare a casa sua. Egli, nonostante gli impegni e la stanchezza, mi accoglieva con gioia e, dopo una conversazione che durava oltre la mezzanotte, percorrevo gli altri 10 chilometri per tornare a casa soddisfatto. Forse, ti dirai, nella chiesa che frequento non c'è, è un anziano del genere. Può darsi che nella tua chiesa non ci sia un tale anziano, o che non ci sia un anziano come tu lo vorresti, ma è quasi impossibile che non ce ne sia uno che ami il Signore e le anime. Senz'altro non è perfetto, forse ha commesso anche degli errori nei tuoi confronti, ma ricordati che se anche tu un giorno sarai un conduttore di chiesa, avrai bisogno di essere compreso e perdonato. Un proverbio dice, chi non sa perdonare, cioè amare e comprendere, rompe il ponte sul quale egli stesso deve passare. Quello che manca oggi sono i discepoli, cioè coloro che sanno seguire chi è più avanti negli anni di fede. Seguire una persona più anziana nella fede non significa essere sempre d'accordo, ma è l'atteggiamento indispensabile per imparare ed avere un fondamento cristiano. Poi, col tempo, anche tu avrai delle certezze confermate dall'esperienza della vita. Il terzo consiglio che posso darti per conoscere il tuo eventuale dono di predicare l'Evangelo è quello di avere di te un concetto sobrio. Forse non lo sai, ma ciò che ostacola o ferma molti giovani di oggi nel ministero della parola è l'opinione errata che hanno di se stessi. O si sentono incapaci di dire qualsiasi cosa e così rifiutano di iniziare, o si sentono dei predicatori fatti e allora alla prima esperienza negativa buttano la spugna. Non cadere in questa trappola del diavolo. Predicatori non si nasce. È vero che alcuni nascono con l'oratoria facile, ma tutti indistintamente devono fare il tirocinio, perfezionando con il tempo il loro modo di presentare la parola. Le prime volte ti sentirai il cuore in gola e i tuoi pensieri verranno meno, ma non scoraggiarti. Anche il famoso predicatore Billy Graham ha avuto esperienze del genere. Un giorno ha testimoniato davanti a una folla di migliaia di persone che aveva preparato 4 sermoni che dovevano durare circa 1 ora ciascuno, ma quando si alzò per parlare, vedendo una 30 di persone che lo ascoltavano, fu preso dalla paura e diede tutti e 4 i messaggi in 8 minuti. Per questo motivo è bene che l'inizio sia modesto. Io ho cominciato in una casa di campagna in una stalla dove ci si trovava in 6 o 7. Infine, il quarto consiglio che posso darti per conoscere il tuo eventuale dono di predicare l'Evangelo è quello di trasmettere ciò che hai ricevuto da Dio. Per 2 volte l'Apostolo Paolo disse ai Corinzi che aveva dato loro ciò che aveva ricevuto dal Signore. E, importante per chi predica, non lasciarsi condizionare dalla logica umana, né dalla filosofia moderna, né dall'ambiente in cui si trova. Se mentre leggi la parola di Dio, lo Spirito Santo ti fa notare qualche verità, rifletti. Tieni sempre presente che i pensieri di Dio non sono i nostri. Inoltre, non cercare di dare ciò che hanno dato altri. Non essere un eco, cioè non ripetere sempre quello che dicono gli altri, ma sì una voce, come lo fu Giovanni il Battista. Quando inizi a predicare, è sufficiente che tu inizi parlando un quarto d'ora, e non cercare subito di trattare delle dottrine. Quello che importa non è la quantità delle parole, ma la qualità. Se Dio ti ha parlato, l'uditorio non rimarrà insensibile, ma soprattutto abbi come scopo l'edificazione della Chiesa. A questo punto mi chiederai, e se dopo aver fatto tutto questo non vedo il dono? Ti rispondo, hai il problema che avevo io, perché oltre ad essere balbuziente, all'inizio non vedevo alcun progresso, finché non ho messo seriamente la cosa davanti al Signore ed Egli mi ha risposto. La tua vera preoccupazione è quella di fare bella figura. Dai quello che hai e parla come sai. Da quel giorno ho predicato senza pretese, e la Chiesa, benché riconosca in me un uomo senza doti di oratoria, accetta ciò che il Signore ha da dirle attraverso di me. Conosco i miei limiti, so che non diventerò mai un vero predicatore, ma è meraviglioso che alla fine ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Vuoi che ti confessi una cosa? In fondo sono contento di essere quello che sono, perché posso essere di sprone a chi ha il dono. Poi, leggendo la parola di Dio e constatando come Egli ardia sempre a svergognare le cose ignobili e forti del mondo, le cose sprezzate, anzi, quelle che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio, ho compreso che queste sono le vie di Dio. Marzo 1975. Ellero.